Montecitorio e dintorni. Montecitorio e dintorni, buongiorno ai nostri ascoltatori. Questa settimana siamo in compagnia del capogruppo di Scelta Civica qui a Montecitorio, Lorenzo Dell'Ai. Buongiorno onorevole, ma insomma, per i nostri ascoltatori, cosa sta succedendo tra Scelta Civica ed UDC? Ma nulla di drammatico, non c'è un'area politica del nostro paese che in questo tempo non stia affrontando contraddizioni, discussioni, talvolta anche polemiche un pochino sopra le righe. Anche i partiti più strutturati lo stanno facendo. Per quanto riguarda noi, devo dire che si è chiuso un ciclo, naturalmente, si è chiuso una prima fase della nostra esperienza, quella legata ad una lista, appunto civica per definizione, che nasceva sulla base dell'esperienza importantissima del governo Monti, e si sta aprendo una fase di più forte maturità politica. Abbiamo deciso di diventare un vero e proprio soggetto politico. Naturalmente nel fare questo dobbiamo affrontare tanti problemi, e tra questi c'è anche il problema del posizionamento politico, il problema di come organizzarci e anche il problema di affrontare i rapporti con un altro nostro compagno di viaggio, fin qui assolutamente leale, che è stato l'UDC, e dunque dovremmo discutere se rimanere due partiti diversi, se confluire in un unico progetto politico. Io mi auguro che questo sia possibile, e intanto comunque credo molto importante che continuiamo a collaborare nei gruppi parlamentari e soprattutto che continuiamo a fornire al governo Letta quel supporto in termini di responsabilità, vorrei dire di razionalità e di pacatezza, che è un pochino forse la cifra più riconoscibile della nostra presenza. La scelta del presidente Monti di stare un po' dietro le quinte in quest'ultimo periodo, come la dobbiamo interpretare? Ma a dire il vero, il presidente Monti ha accettato di essere presidente di Scelta Civica, quindi non è che se ne stia così tanto dietro le quinte. Di sicuro il presidente Monti da sempre, per sua formazione, per sua esperienza, è molto concentrato sugli scenari macro, diciamo così, della politica, quindi segue moltissimo la politica europea, è preoccupato di poter capitalizzare un po' anche a livello europeo gli sforzi che il nostro paese ha fatto anche sotto la sua guida, sotto la sua responsabilità. È forse meno interessato agli aspetti più quotidiani, più domestici della politica italiana. Sono di meno, io credo che più passa il tempo, più la figura del presidente Monti, anche con gli errori, con le difficoltà del suo governo, ma più passa il tempo, e il tempo è galantuomo, più apparirà chiaro che ha dato il presidente Monti un contributo importantissimo al recupero di credibilità e al recupero della rotta del nostro paese. Ecco, lei parla di credibilità messa un po' e di nuovo in dubbio, soprattutto a livello internazionale, dopo l'ennesima condanna di Silvio Berlusconi. Le chiedo allora due cose: come ne esce a livello di immagine internazionale il nostro paese, e poi se queste vicende giudiziarie dell'ex premier potranno influire sulla maggioranza di governo di cui voi fate parte? Parto dalla seconda domanda. Certamente influiscono sulle vicende di governo, non nel senso, credo, di una automatica crisi di governo. Non mi pare che le dichiarazioni di Berlusconi e degli altri leader del PDL vadano in questa direzione, però certamente una vicenda come questa, con la pesantezza della sentenza, influirà senz'altro sulla clima di tensione, che già è molto alto, di questa strana, anomala, anche se necessaria, maggioranza. Dunque prevedo un cammino più difficile, bisognerà allacciare un po' le cinture di sicurezza, per dirla così. Speriamo che comunque questo non comporti appunto una perdita di concentrazione sulle cose che interessano più da vicino gli italiani, che sono il lavoro, che sono la ripresa economica, che sono le politiche sociali, che sono anche il recupero di una dimensione di coesione, di solidarietà del nostro paese. Quanto alla prima domanda, l'immagine internazionale del nostro paese, certo, io penso, al di là del giudizio sulla sentenza, non spetta ai politici applicare il codice penale, ma io penso che comunque questa sentenza rappresenti un po' anche la rappresentazione di un certo modo di condurre la vita del paese in questi 15-20 anni che abbiamo alle spalle. Sono stati anni di grande personalizzazione della politica, di grande banalizzazione della politica, e forse anche anni di smarrimento di quella bussola civile e forse un po' anche morale che dovrebbe comunque far sempre parte della vita collettiva di un paese. Quale può essere una ricetta breve, soprattutto per rilanciare l'occupazione o per aiutare le imprese? Guardi, io sostengo che le questioni dell'IMU e dell'IVA sono sicuramente importanti, ma non sono questioni dalle quali dipende il futuro del paese. Certo, bisogna affrontarle, non vorrei essere equivocato, ma anche la dimensione finanziaria, l'effetto di queste misure può avere forse un significato più psicologico che reale. In realtà ciò che serve sono svolte un pochino più coraggiose, più strutturali nella vita del paese. Per esempio nel campo della spesa pubblica, certamente serve un grande piano industriale di riorganizzazione radicale della pubblica amministrazione. Senza questo piano, e sarà molto difficile riuscire a ridurre la spesa pubblica, posto che in alcuni settori come la scuola, come la sanità, già negli anni scorsi abbiamo avuto forti riduzioni degli stanziamenti, quindi bisogna che la spesa sia più efficiente, ma per fare questo bisogna riorganizzare radicalmente la pubblica amministrazione. E poi serve investire fortemente sui veri fattori della competitività, perché il lavoro nasce dalla competitività del sistema e delle imprese, e quindi investimenti sulla ricerca, sull'apertura internazionale del sistema, perché si tratta di tirar fuori dalla società italiana quei talenti di produzione del valore che ci sono sotto le macerie di questa crisi e che però hanno bisogno di linguaggi, di strumenti anche molto nuovi. Tema delle riforme costituzionali, istituzionali, come le vogliamo chiamare, perché non partire proprio dalla legge elettorale che invece sembra essere messa in coda di questo treno delle riforme? Ma noi abbiamo sempre ritenuto che la riforma della legge elettorale sia una priorità e continuiamo a ritenerlo. Noi faremo ogni sforzo, quando anche questo governo dovesse andare in crisi, faremo ogni sforzo per evitare che la conseguenza di queste eventuali crisi sia il ricorso alle urne con questa legge elettorale, e saremmo disposti a qualsiasi tipo di alleanza purché un'eventuale crisi di questo governo non porti il paese alle urne con questa orribile legge elettorale. Certo, però c'è anche bisogno di una riforma più complessiva delle nostre istituzioni. Io penso che mentre il governo si concentra sulle cose che riguardano il lavoro e la ripresa economica, è più che giusto che il Parlamento, attraverso una sua commissione speciale, si occupi anche di ammodernare un pochino la seconda parte della nostra Costituzione. Sono però d'accordo su un punto: non dobbiamo avere aspettative taumaturgiche da questa riforma, non dobbiamo neanche rincorrere parole vuote. Presidenzialismo è, da questo punto di vista, anche forse una parola un pochino vuota. Dobbiamo fare delle riforme realistiche che siano anche, aggiungo io, in coerenza con la filosofia istituzionale del nostro Paese. Ringraziamo Lorenzo Dell'Ai, capogruppo di Scelta Civica alla Camera. Montecitorio e dintorni termina qui. Un saluto ai nostri ascoltatori da Vincenzo Miglietta.